L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buonasera cari ascoltatori, 18 e 7 minuti, di nuovo insieme fino alle 20 e 30, aspettiamo i vostri interventi, cominciate subito a prenotare la diretta 800 24 00 24, se invece volete parlare con noi, interagire con noi in tempo reale, ci trovate su Twitter, l'account del programma è chiocciola, si può fare 24, il mio chiocciola, Ale Maurizi, vai, cominciamo. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella per me, sei troppo bella, troppo bella, troppo bella. Desiderare. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella, che ti ho scritto una canzone. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, sì, la televisione. Non mi aspettavo di vincere perché comunque perché penso e sono convinta tuttora che c'erano bimbe molto più belle e che io avrei fatto vincere, però sono contenta. Che trasmette su tutto. Chokma Ukwu, 15enne di origini nigeriane, che ha vinto Miss Livorno, è di colore. Non si capisce da come parla perché parla livornese, ma lei è di colore e è il simbolo, se vogliamo, della nuova integrazione italiana, i nuovi italiani che avanzano. Ci sono state delle polemiche naturalmente perché come una Miss nera, d'altra parte abbiamo già avuto Miss Italia di colore, ma tant'è, sentiamola ancora che insomma, lei si dice incredula intanto perché pensava che ci fossero delle ragazze più belle di lei. Ostacolare un sogno di una bimba di 15 anni solo perché è di colore. Dire che una persona non può partecipare a una cosa solo perché è diversa da te penso che sia da persone ignoranti. Comunque io me ne frego sinceramente. Sentite come parla, parla più livornese di quelli livornesi da generazioni, eppure è un riflesso condizionato quello di considerare queste persone non degli italiani come noi. Lo aveva fatto anche Matteo Salvini qualche sera fa quando, parlando del nuovo presidente della Federcalcio Tavecchio, dei troppi stranieri nel campionato di calcio italiano, aveva detto sono stufo di vedere gli stranieri in campo, però tra gli stranieri ci aveva messo anche Balotelli. Non vorrei fermare le lancette della storia, però neanche vedere squadre con 11 stranieri in campo, di cui la metà squadra scarsi e sconosciuti, mentre i ragazzi del nostro vivaio non riescono a giocare neanche un quarto d'ora. Indubbiamente. Preferirei avere 11 ragazzi della primavera in campo che perdono col Milan piuttosto che 11 Robinho o Balotelli in campo. Non mi aspettavo di vincere perché comunque perché penso e sono convinta tuttora che c'erano bimbe molto più belle e che io avrei fatto vincere, però sono contenta. Altra questione, altra polemica che corre sul filo questa volta delle divisioni tra nord e sud o tra fascisti e antifascisti, perché è stato annullato il concerto dei 99 Posse a Verona. Loro dicono a Verona non si può suonare perché noi siamo una band antifascista. Evidentemente la città non gradisce, la città, chi amministra la città, cioè Tosi, il sindaco leghista, non gradisce chi si definisce antifascista. Tosi minimizza e dice non ne sapevo nulla, hanno già suonato qua, per me se vogliono possono anche tornare. Fatto sta che il concerto è stato annullato. Il fidanzato non ce l'hai. Io non mi metto a polemizzare con chi è stato condannato per detenzione di eroina o chi ha detto che usava abitualmente crack, non è il mio campo, non è il mio stile. Io ho come sindaco invitato gli organizzatori a mantenere l'evento perché io posso non condividere, come non condivido praticamente nulla di quello che dicono i 99 Posse. Non li andrei a vedere, non li andrei ad ascoltare, però è giusto che possano, pur secondo me avendo delle espressioni sbagliate, che possano esprimere. Perché in democrazia devi garantire a tutti di potersi esprimere. Scusami, sono distratto. Di che segno sei? Io sono assolutamente favorevole perché la prostituzione sia normata, perché se c'è l'autodeterminazione, se una donna, certo a me donna dispiace che ci siano donne e uomini che vogliono vendere il proprio corpo, ma non ho una visione così utopistica da pensare che eliminiamo la prostituzione. Ci credi, mi hai colpito dentro il cuore? Non mi dire che non pensi a certe cose. Io ci sono stata perché ho fatto un programma televisivo e mi sono messa anche sulla strada per capire cosa voleva dire oggi fare la prostituta nel nostro paese. E vi ricordo che oggi nelle nostre strade ci sono le schiave, ci sono la maggioranza, sono ragazze minorenni. Insomma, sembrano ormai quasi tutti d'accordo sul fatto di voler legalizzare la prostituzione. Questa era Daniela Santanchè di Forza Italia. Sono molte le forze politiche, la Lega ha promosso, sta promuovendo addirittura qualcosa come un'iniziativa di legge in consiglio regionale in Lombardia. Antiproibizionisti ci sono da tutte le parti, ormai il conformismo politico è quello di dire legalizziamo la prostituzione. Chissà, vedremo passare degli altri mesi e probabilmente non questa cosa, che sarebbe sicuramente anche una presa d'atto della realtà, la prostituzione non la estirperà nessuno, forse sarebbe il caso di prenderne atto e di dire, come diceva Daniela Santanchè, legalizziamola. Vedremo il passare del tempo. Intanto voi sapete che abbiamo seguito la marcia di avvicinamento dei bronzi di Riace verso Milano in vista di Expo 2015. Allora, avete sentito sicuramente nel giornale radio la dichiarazione di Vittorio Sgarbi, in quanto ambasciatore per la cultura della regione Lombardia, dire i bronzi saranno effettivamente a Milano. Ne ho parlato con l'assessore alla cultura della regione Calabria, Mario Caligiuri, che ha detto tutto ok. Peccato che non è lui che deve decidere, né Sgarbi né Caligiuri, ma è Franceschini, il ministro dei beni culturali, che ha istituito una commissione ad hoc per valutare questa cosa qua. Sgarbi, tra l'altro, subito dopo smentito dallo stesso assessore Caligiuri, un cortocircuito perfetto che, quel che abbiamo capito, non conferma di avere dato il suo via libera per quanto conti. Allora, intanto notizie di questi minuti con la conferenza stampa Alfano Malmström sulla questione che sta a cuore a tutti noi, cioè la questione Mare Nostrum, il pattugliamento del canale di Sicilia. L'Italia chiede da tempo, Alfano ma anche Renzi, tutti lo dicono, l'Europa deve farsi carico. Ieri l'ha detto anche l'ONU, che l'Italia non può essere sola, anche se ha avuto un ruolo importante nel salvare vite umane, a fare questa cosa. Allora, la Malmström ha detto ci sarà un nuovo Frontex Plus, chissà cosa vuol dire, se è quello che chiedeva l'Italia. Intanto Lara Comi, eurodeputata, dice altro che commissario, altro che alto rappresentante per la politica estera, all'Italia servirebbe un commissario europeo per l'immigrazione. Quello che invece è veramente importante è quello che è bene per l'Italia. Per l'Italia il commissario all'alto rappresentante non serve a nulla, è solo una questione di facciata, a tal punto che alcuni ministri vostri hanno detto ci serve solo per essere il vicepresidente della commissione. Io le dico, e chi se ne frega se abbiamo continuamente sbarchi? Noi dobbiamo licenziare dalle scuole soltanto dei ragazzi che possano realizzare se stessi non soltanto da noi, ma in Europa e nel mondo. Ho parlato diverse volte delle tre I: impresa, internet, informatica, inglese. Io non credo che oggi noi possiamo avviare un giovane nel mondo del lavoro che lo attende se questo giovane non porta con sé queste conoscenze. Era il meeting di Rimini dell'agosto del 2000. Berlusconi ricordava la rivoluzione delle tre I: inglese, internet e impresa nelle scuole. E bene, adesso sappiamo, a pochi giorni dall'inizio della scuola, scopriamo che non ci sono i fondi, non ci sono gli insegnanti per fare l'ultimo step voluto dal ministro Gelmini 4 anni fa sull'inserimento dell'inglese, una materia, non l'inglese, insegnata in inglese. Una novità che dovrebbe approdare nelle scuole italiane, però molti presidi dicono non abbiamo fondi, non ci sono soldi, questa cosa non partirà. Sono passati quasi 20 anni e siamo ancora fermi. Big fish, do you speak English? Fabri Fibra, do you speak English? Lo chiedo a te, do you speak English? Do you speak English? Oh, voglio andare in Inghilterra, in Inghilterra, in Inghilterra. Voglio andare in Inghilterra, in Inghilterra, in Inghilterra. Voglio andare in Inghilterra, in Inghilterra, in Inghilterra. Voglio andare in Inghilterra, in Inghilterra, in Inghilterra, in Inghilterra. A Brighton per chiedere a qualcuno come va, si domanda e si risponde, ah, è meglio. Se invece una persona ti guarda male, ti vorrebbe picchiare, dice, ah, è meglio. In Inghilterra se vuoi avere un conto in banca basta solamente dire alright mate, e quando invece non hai voglia di parlare basta solo che tu dica alright mate. In Inghilterra le ragazze bevono tutta la sera, in Inghilterra le ragazze la danno la prima sera, e quando poi si rivestono alla fine del gioco se ne vanno e non ti rompono il cazzo il giorno dopo. In Inghilterra è tutto più veloce, in Inghilterra se c'è l'erba non finisci in croce, quando fumi questa merda ti va via la voce, when you smoke this shit ti va via la voce. Inglese e web, la scuola parte nel caos, al via la riforma per l'ultimo anno delle scuole superiori. Il preside del liceo Parini di Milano dice una buffonata. Buonasera a Carlo Arrigo Pedretti, preside del Parini di Milano. Buonasera. Intendiamoci, la buffonata è come vengono fatte le cose dal ministero, non l'insegnamento di una lingua straniera di una materia. Ecco, perché intanto sono perfettamente d'accordo con la necessità imprescindibile della conoscenza dell'inglese, e da questo punto di vista il presidente Berlusconi ha non una, ma mille ragioni. Ecco, però io ho fatto risentire quel frammento per dire quanto in Italia le rivoluzioni siano lente in realtà, e questa rivoluzione che ha annunciata dell'inglese adesso rischia di saltare all'ultima curva, perché intanto spieghiamo per chi non fosse aggiornato e non lo sa, da questo anno scolastico, nell'ultimo anno credo solo dei licei o anche ecco dei licei, doveva debuttare l'insegnamento di una materia in inglese. Che materia, per esempio? Qualunque. Per esempio storia dell'arte. Storia dell'arte. Io sono stato, ad esempio, parecchi anni fa al Collegio delle Fanciulle, dove c'è il liceo europeo, la storia dell'arte veniva svolta in francese. Ecco, un esempio concreto, semplice, chiaro, no, di una materia svolta naturalmente. E voi, che cosa avevate predisposto, pensato di fare? Quali materie? Si pensava proprio storia dell'arte. Voi pensate dell'arte. Solo che se le riforme non vengono sostenute da tutti i punti di vista, anche da quello economico, ma non è soltanto una questione economica, è anche una questione di mandare persone, personale del ministero, se ce n'è, o comunque deve perirlo, naturalmente ad insegnare agli insegnanti in maniera tale da avere questo nuovo servizio, che non dimentichiamoci per esempio che in Olanda da molto tempo l'insegnamento è sia in olandese sia in inglese. Sì, tra l'altro è una cosa che in alcune università italiane, per esempio al Politecnico di Torino, ma anche altrove, si fa, perché insomma che gli italiani abbiano bisogno di imparare l'inglese ce lo ricorda per esempio anche il Premier Matteo Renzi. My personal experience, Europe was my mother who cried in the TV when she feeling with the she felt the Berlin walls destroyed by the people. Nobody won. Non si capisce assolutamente niente. Preside Pedretti. È meglio che parli fiorentino. Meglio che parli. Allora, intanto questo programma se lo CLILA, adesso lo pronuncio io così faccio anch'io la mia figura da italiano che non sa l'inglese. Content and Language Integrated Learning. Sì, che grosso modo è così. Ecco, l'insegnamento integrato di una lingua, no, che insegna contemporaneamente anche una materia diversa dalla lingua. Ecco, però di chi è la colpa? Perché voi dite adesso noi non abbiamo, cos'è che non avete i fondi necessari per pagare questi insegnanti in più, non avete riformato l'insegnante? Una cosa, la riforma Gelmini, che tutto sommato, devo dire, io parlo per il liceo classico, ma anche per il liceo scientifico, non è che mi trovo piuttosto d'accordo, purtroppo non è stata sostenuta dal ministero stesso, io non lo so. Per mancanza di forza politica, oppure perché l'amministrazione, noi sappiamo che la burocrazia osteggia, no? È normale che questo avvenga, ma non si può non sostenere mandando delle persone idonee a formare coloro i quali dovranno essere i formatori in prima persona diretti, no? Nei confronti degli studenti. Cioè, quindi il punto è formare gli insegnanti. Che poi dovrebbero tenere lezioni, cioè io sono un insegnante di storia dell'arte e se dovrei fare lezioni in inglese ho bisogno che qualcuno mi, cioè già questo vuol dire che gli insegnanti magari non sanno l'inglese, però questo abbiamo avuto riprova, Renzi non è un caso isolato. stato. Ecco. Ma non è il discorso dell'inglese, è un discorso sì. un attimino problematico, perché ci sono varie competenze linguistiche, per cui c'è chi lo ascolta e lo capisce, c'è chi lo parla, c'è chi lo parla con facilità, c'è chi lo legge con facilità. Si tratta di integrare queste varie competenze in maniera tale da poter ottenere dei docenti i quali facciano delle discrete lezioni in inglese. Mi scusi, ma la riforma Gelmini cosa prevedeva da questo punto di vista? Come si sarebbero dovuti formare questi insegnanti? Si sarebbero dovuti formare con un impegno del Ministero, ma a me non sembra di aver visto. A voi non è arrivato assolutamente, perché sono passati quasi quattro anni. Quattro anni, precisamente. E tra l'altro io le dirò un'altra cosa, no? Che sia per questo aspetto sì. sia per altri aspetti mi sembra strano che non si sia fatto da parte del Ministero, nei vari governi, per carità, perché sappiamo che in Italia i governi sono quello che sono, no, non si sia fatto una, diciamo così, esame della riforma, perché mia collega mi ha detto bisogna aspettare che passino i cinque anni, però siccome i cinque anni sono in realtà 2+2+1, perché non dobbiamo pensare e ragionare nei termini della vecchia scuola, se gli anni sono 2+2+1 si potrebbe fare, si sarebbe dovuto fare da parte del Ministero, con l'aiuto dei presidi, con l'aiuto, no, con la cooperazione anche degli insegnanti, una analisi, un esame di coscienza. Ma è questa cosa, scusi, cioè, tocca al Ministero, ma anche a voi, cioè in questi anni non vi siete accorti che mancava un qualcosa, cioè arrivare adesso a dire salta tutto. Il problema, vede, è un problema. Sembra sempre dare la colpa agli altri. No, il problema è politico, perché noi abbiamo dei ministeri che continuano a non funzionare, perché per tanti anni, per 50 anni non hanno fatto niente. Adesso vogliono fare tutto e siamo all'ingolfamento, no, delle cose da fare con questo personaggio Renzi che continua a parlare, no, e anche lui, dico, non va a colpire le cose che sono essenziali. Ma quindi voi di fatto lo farete o no? Cioè l'insegnamento in inglese lo farete o no? Non ci sarà perché non ci sono. Quindi sarete inadempienti? No, inadempiente è il Ministero, perché il Ministero deve fornire i mezzi, dal momento che l'autonomia delle scuole è una di quelle cose che non esiste se non ci sono i mezzi. E i mezzi da dove vengono? Vengono dal Ministero. Ora, che cosa ha fatto, che cosa fanno i governi da un po' di tempo a questa parte? Non investono nell'università e nella ricerca, non investono nella scuola e tagliano, no, i fondi. Ma allora, il ministro Giannini e Renzi lo sapevano di questa cosa qua? L'avranno saputo, li avrete scritto. Sono loro che fanno i ministri, sì. sono loro che fanno il Presidente del Consiglio, perché uno deve avere anche l'umiltà di dire io vado ad informarmi, cito semplicemente un caso, sì. Il dottor Valitutti si va nei tempi remoti, che era stato per vari anni provveditore agli studi, è stato per due anni, non mi chieda la data perché non mi ricordo, perché sono tanti anni, non mi interessa tra l'altro, sì. ecco, ma aveva detto io per un anno non faccio niente perché devo capire, poi dopo faccio. Ora questa gente qui non capisce, perché in realtà non capisce nulla di scuola, perché l'ultima volta che sono stati a scuola è quando hanno fatto il loro esame di maturità temporibus illis, no? Però vogliono riformare tutto. Umiltà, riforme naturalmente, però fatte con grano salis, non semplicemente per dire l'Europa abbia riformato la scuola, di cui all'Europa interessa abbastanza poco. Ma non sarà che questa cosa dell'inglese è una bandierina da sventolare ogni volta per prendere un po' di voti, poi in realtà non gliene frega granché a nessuno. Bravo, perché al politico italiano non gliene frega mica tanto. Insomma, siamo ancora ai tempi, andiamo indietro di 5 secoli, no? All'Italia del Rinascimento, non è che sia cambiato molto. Senta, non però ci sono... non è che intanto le do una notizia, non so se l'avrà saputo, però è uscita pochi minuti fa il ministero, il famoso ministero di cui parlava lei, ha dato il via libera all'assunzione di 620 dirigenti scolastici per quest'anno, perché come sappiamo c'era lei pure andrà in pensione, no? Ho letto male. Certamente, perché io sono uno di quelli che, avendo fatto i 65 anni, pur non avendo compiuto i 40 anni di effettivo servizio, perché li compierei il 14 gennaio del 2015, questa cosa qui è una delle ulteriori baggianate. Però arrivano i sostituti adesso. E Renzi. Io anche perché parlo come ministro del governo Ombra. Ecco, no? Diciamo anche questo, perché magari uno potrebbe dire pure. Lei c'è il conflitto di interessi perché ombra del governo Rotondi, di Forza Italia? Rotondi, esatto. Perché dico, signori miei, è vero che questo governo qui sta in piedi perché c'è Forza Italia, ma è altrettanto vero che ci sono varie idee all'interno di Forza Italia ed è giusto che sia così, mancherebbe altro. E cosa prevede il governo Ombra per quanto riguarda la scuola? Ma io sono per la funzione pubblica, no? Non per la scuola, comunque sia, con la mia collega Fuscagni abbiamo avuto uno scambio. E cosa prevede? Prevede che si facciano delle cose sensate e non insensate, perché adesso si sta lavorando all'interno del massimo dell'insensatezza. Soprattutto però dovrebbe prevedere che si trovino i fondi per fare queste cose, perché i fondi non li vuole mai scuscire nessun ministro dell'economia per la scuola, questo mi sembra una costante. Questo è un grosso problema, perché i fondi, no, che vengono... Sì. Non mi faccia dire dei fondi che non vengono dati alla scuola, perché in effetti se la scuola non ha fondi, come possiamo investire per il futuro? E questo è il problema. Allora, non si vuole investire per il futuro, d'accordo, allora vuol dire che il nome italiano andrà a farsi benedire in una specie di pappetta che non si capisce dove potrà essere. Però mi scusi, la riforma Gelmini non era quella che aveva tagliato anche un po' di fondi o no? Aveva tagliato, ma non come negli ultimi 3 anni. Perché quindi è andato peggiorando, cioè chi si lamentava della Gelmini allora adesso dovrebbe piangere perché la cosa è andata peggiorando. Sì, esatto, perché veramente abbiamo avuto gli ultimi tre ministri, no, con il regolatore sono pessimi ministri. Scusi, un'ultima cosa, Preside, ma quindi, cioè, a sua conoscenza, in quante altre scuole la situazione è come la vostra e non ci sarà insegnamento? Non saprei, statisticamente, perché io non, a differenza di certi politici, non sparo fuori le cose se non sono più che preparato. Comunque non mi sembra che ci sia questa grande ondata di insegnamento in una lingua straniera, che poi la lingua straniera, diciamo pure, è l'inglese, perché c'è poco da fare. L'inglese oggi è quello che era un tempo il latino, no? Non siete un caso isolato, ecco. No, assolutamente. Quindi possiamo dire che insomma, lei non si sbilancia, però... No, non mi sbilancio perché non voglio dire delle fesserie, no? Perché non... I problemi che ha avuto lei a formare questi insegnanti li avranno avuti anche le altre scuole, se è una questione del Ministero. Quindi probabilmente non decollerà questa cosa dell'insegnamento dell'inglese. Ma per il momento no, comunque sia, è nella natura delle cose che si faccia una cosa del genere ed è anche abbastanza impellente. Diciamo, quindi lei pure si aspetta dal Ministro Giannini un annuncio, magari tardivo, ecco trovati, diciamo, i fondi o le modalità per formare questi insegnanti, almeno no, per... Io veramente da certi ministri non mi aspetto niente di buono, comunque sia, speriamo che le cose vadano in questo modo per la scuola, per i nostri ragazzi, per i futuri cittadini italiani. Dal ministro Giannini non si aspetta niente lei no, di buono? No. E da Renzi nemmeno, mi sembra aver capito. E da Renzi meno che meno. Il gatto e la volpe, Renzi. Il gatto, sì, va bene. Poi ha varie, lui è il gatto e ha varie volpi che gli dicono. Va bene. Grazie, buona serata, buona estate. Si può fare, si può fare, si può vivere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, cominciamo con gli ascoltatori e cominciamo da Fabio che ci chiama dalla provincia di Pavia. Buonasera. Sì, salve, sono Fabio, però non telefono da Pavia, da Pisa. Va bene. Allora abbiamo io volevo Fabio da Pavia però, volevo eccomi. Quello lì. Sì, Fabio eccomi. Da Pisa, resti in linea. Fabio da Pavia, eccomi. Sì. Sì, buonasera. Io ho chiamato perché sentendo quello che stavate dicendo prima mi sono ritrovato nella grande idea che aveva provato a lanciare il ministero. L'ho vissuta 15 anni fa, nel senso che dovendo scegliere il liceo a cui iscrivermi nel 94, ho scelto un liceo di Milano privato che offriva corsi di studio per il triennio terza, quarta e quinta in lingua inglese. Sì. Nello specifico storia e geografia, dopo finito il secondo anno, diventavano in inglese. Quindi lei sarà favorevole a questo, all'approdo anche nella scuola pubblica? La mia esperienza mi dice che è solo più guadagnato. Inoltre non si studia solo la storia italiana, nel caso nostro abbiamo fatto la storia d'Europa, quindi ho conosciuto tutte le dinastie, tutte le varie vicissitudini a livello europeo che poi hanno portato l'Europa a essere quello che è, diciamo. Però l'ho scelto con cognizione di causa, sapevo che mi avrebbe dato qualcosa. Vabbè, in più. Fabio, però diciamo adesso nella scuola pubblica non sarebbe più una scelta, sarebbe un obbligo. Sarebbe anche ora, io credo che si possa fare. Il problema è che non si farà. A quasi 20 anni dall'annuncio delle 3I, io ho ricordato quella, insomma, di momento topico in cui si è parlato dell'inglese, sono passati 14 anni, ma forse anche di più, siamo ancora lì a dirci che non ci sono insegnanti formati, non ci sono i fondi, questo è veramente un'assurdità, un paradosso. Che dire, Fabio? Se posso aggiungere una cosa, ma giusto per chiudere il cerchio, lo stesso istituto già verso la fine del terzo anno delle medie, perché ci sono anche le medie, faceva delle lezioni di informatica quando internet nel 92 era un fagiolino, un embrione. Ma vabbè, una scuola privata, io guardi, internet l'ho studiato anch'io, l'informatica in una scuola pubblica, ed era anche prima degli anni 90, sia per questo, quando ho fatto il liceo. E qualcosa di buono lo fa anche la scuola pubblica ogni tanto, qualcuno la imbrocca, no? Io credo più di una. In questo caso però siamo fermi, perché come ha detto il preside Pedretti, se la Gelmini ha tagliato i rubinetti della scuola, i ministri successivi hanno fatto ancora peggio. E adesso Fabio da Pisa, buonasera. Sì, buonasera, volevo intervenire riguardo la questione Frontex Plus, sì. Che il nostro ministro ci ha dato un'altra della sua grande saggezza. Ma allora, praticamente questo Frontex Plus cosa sarebbe? Sarebbe praticamente che l'Europa, cioè quindi anche l'Italia, continuerà ad importare ancora i migranti. Credo che sia questo. Lei ha capito? Io non lo so, perché è stato detto pochi minuti fa e appunto, non lo so che cos'è. Sentivo appunto la vostra radio, il quale la voce di Angelina Alfano ha detto che saranno messe a disposizione navi, elicotteri, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che continuerà. Cioè, con un altro nome non sarà più un male. Sì, però intanto non sarà più l'Italia a farsi carico, come ricordavano alcuni, 100.000 euro, non so quanto costi al giorno, al mese, non so più. Vince sui 100 milioni annui, quindi sono sui 9-10 milioni al mese, quindi fatevi voi il conto. Sono circa 1.000 militari della Marina impegnati e quindi questa è la notizia, cioè sarà l'Agenzia Europea a farsi carico di questo. Lei dice quello che non cambia è che poi sbarcheranno in Italia? Sì, sbarcheranno ancora, cioè il discorso è questo, ma poi il discorso non è, allora, questa situazione, l'Italia non è un paese razzista, però ci sta facendo diventare razzisti. Perché? Perché il problema è che io vivo in una città piccola che è Pisa, ma mi creda, e non è una città, cioè una città turistica, una città conosciuta nel mondo, una strada un'altra, ma qui non esce quasi più nessuno la sera. Cioè, siamo in balia veramente, e mi meraviglio di città come possono essere Roma, Palermo, Napoli, città che hanno centinaia e centinaia e anche migliaia di tra virgolette, migranti o clandestini. Il discorso è questo. Adesso, già questi 130.000 che possono da sommare a tutto il resto, che appunto vengono, eccetera, eccetera, rumeni, bulgari, albanesi, eccetera, eccetera. Che non vengono per nave, tra l'altro. Non vengono per nave. Perché quindi, ricordiamoci perché anche questo, noi abbiamo gli occhi puntati su quello, ma la maggior parte vengono dalla frontiera dell'est, in macchina. Mi dite un po' una cosa, questi ci costano, perfetto, ok, sono soldi, però dopo... Che cosa andranno a fare con la disoccupazione che abbiamo in Italia? Col fatto che questi poveracci, perché signori, ripeto, nessuno di noi è razzista, ma il problema ora si pone giustamente con l'italiano, perché giustamente deve essere, anche l'Italia deve tutelare i suoi concittadini, porca miseria, connazionali. Ma stiamo scherzando? Cioè, quindi quello che voglio dire... Sì, è chiaro quello che vuole dire. È chiaro, saranno. Sì. A pagare sempre tutti i giorni. Guardi, Fabio, intanto, cioè, secondo me bisogna anche un po' dividere gli argomenti e affrontarli uno per volta. Un discorso è quello di per un giusto senso di pietà e di solidarietà, di andare ad aiutarli in mare. E questa, se è vero quello che dice Alfano, adesso sarà una cosa a carico dell'Europa, perché Frontex Plus sostituirà Mare Nostrum. E questa è una richiesta che l'Italia ha fatto, e questa sarebbe comunque una notizia positiva, perché vuol dire che l'Europa si fa carico di questa roba qua. Poi dopo c'è l'altro aspetto che diceva lei, che è altrettanto importante, e questo è un altro capitolo. Però ricordiamoci che è un tema anche questo europeo, perché il numero di immigrati che ci sono a Pisa o in Italia è lo stesso, ma è anche minore di quello che troviamo in Francia o in altri paesi, dove magari c'è anche più lavoro e gli immigrati transitano. Per cui, da questo punto di vista, ma comune mezzo gaudio, non lo so, però è un altro problema. Comunque, grazie Fabio da Pisa. Andiamo con Marco, che chiama dalla, da Roma. Pronto? Buonasera. Buonasera. Senta, per così, giusto una provocazione. Sì. Vogliono tassare la prostituzione, ma non hanno pensato a una cosa. Quale donna andrà presso l'agenzia delle entrate a dire faccio la prostituta? Quale cliente dirà mai quella è una prostituta? Poi si potrebbero verificare abusi di ogni tipo, perché ci potrebbero essere delazioni all'agenzia delle entrate, cioè quella fa la prostituta per fare un dispetto. Cioè è una cosa troppo complicata. Dicono però che altrove, fanno, altrove succede, altrove funziona, scusi Marco, altrove in alcuni paesi questa cosa funziona. Non lo so, però cioè una donna che si vede definire prostituta può anche denunciare chi fa sta cosa, perché c'è un limite tra la prostituzione e la non prostituzione molto labile. Molto labile. In che senso, scusi? È molto labile. Come si fa a dire una donna prostituta se magari è stata con uno e questo gli ha fatto un regalo? Guardi, le faccio sentire, ce l'abbiamo a Febal, che nella stessa trasmissione in cui parlava Daniela Santanchè, prostituta transessuale, dice: io rivendica il fatto di essere una prostituta e di volere addirittura pagare le tasse, dice che è andata alla Camera di Commercio per provare eccetera eccetera, e che non vuole iscriversi sotto la dicitura massaggi, perché ci tiene a dire che lei è una prostituta. Sentiamola. Un modo ci sarebbe per pagare queste tasse, basterebbe andare alla Camera di Commercio. Guardi, io sono andato con le telecamere nascoste. Ma va servizi personali, massaggi. Io non sono una massaggiatrice, sono una prostituta. Ha ragione. No, ma sono una prostituta, non sono una massaggiatrice. Lei che è un economista dovrebbe sapere che una per fare massaggiatrice deve andare a scuola per imparare, perché altrimenti invece di fare massaggio magari le mando in ospedale. Vabbè, questa forse, Marco, diciamo che si fa anche un po' di pubblicità, no? Guardi, questa qui è un caso spot, una tanto, non credo che ci sia una schiera. Non lo so, io non lo so se è un caso spot, però può darsi scoppia un caso e poi magari dietro se ne accodano altri. Sì, chi lo sa? Non credo sia possibile. Marco, lei ha espresso la sua perplessità, cioè, su questo. Un commerciante c'ha il suo negozio, è ben individuabile quello che fa. Sì. È individuabile anche la prostituzione, non è che ci possono essere tanti. Deve dimostrare che c'è stato un rapporto e che ci sia stato il pagamento. Quindi avere le prove di tutte e due queste cose contemporaneamente mi sembra un po' difficile. Guardi, il punto è dare trasparenza, portare un pochino di più alla luce del sole questa attività che crea sfruttamento e probabilmente anche una forma di economia sommersa. Io la vedo molto dura. Va bene, Marco, grazie, buona serata. Abbiamo capito. Andiamo con Stefano, che ci chiama da Treviso. Buonasera. Pronto, buonasera. Il mio intervento era per quanto riguarda il discorso delle lingue della scuola. Io sinceramente, ho fatto un istituto tecnico commerciale a Roma con sperimentale linguistico e sinceramente il beneficio che ho avuto all'interno della scuola che ho frequentato era grazie a degli insegnanti madrelingue, ed era una scuola comunque pubblica. Quello che trovo è che secondo me le lingue si possono imparare all'estero, è un costo, per carità, io ho avuto la fortuna di poter recarmi più volte all'estero per studio e anche per lavoro, ed è questo l'unico modo per impararle bene. Un'altra cosa è il livello degli insegnanti degli insegnanti nelle scuole, che purtroppo non sempre sono adeguati. Vabbè, dobbiamo anche un po' accontentarci, anche se non è madrelingua, però insomma è sempre meglio di niente. L'esame di maturità, le dico solo questo, che la persona con cui che era un membro esterno direttamente di inglese, io non lo capivo, e le posso dire che io per tanti anni sono stato all'estero, quindi l'inglese lo so anche abbastanza bene. È chiaro, ha ragione Pedretti, il preside: ci vuole formazione per questi docenti, la formazione però non è arrivata perché le scuole non c'hanno una lira e il ministero non sgancia. 800 24 00 24 traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. Beach on the beach. bruci, sotto solo la pelle bruci, sotto la luna ancora di più. Quando fuori flexi Superman, senza fare love non si può stare, oh baby. Beach on the beach, femmine e uomini vanno a caccia, di occhi neri e di occhi blu. Quante signorine very nice fanno uscire pazzo tutti i boys. L'estate qua, you know. E questa sera l'ombrellone di Beach on the Beach si trova davanti casa o nel luogo di vacanza, non lo so, di Mario Di Nolfi. Buonasera. Buonasera, eccomi qua. Ciao Mario, dove ti trovi, in vacanza o a casa? No, ho rientrato ormai nella capitale, a Roma. Quindi siamo venuti a disturbarti sotto casa, scrittore, naturalmente blogger, giocatore di poker, e anche hai vinto un bel po'. Vero, vero, ho giocato due volte il Final Table del World Poker Tour, che è il torneo, diciamo, tra i più celebri che c'è nel mondo, insomma. Quindi, beato te che sai giocare, perché è bellissimo giocare a poker, è molto affascinante. Senti, per parlare di che cosa? La cosa incredibile che è venuta fuori da Cottarelli, dalla Spending Review, l'avrai visto anche tu, è questo, cioè... Tra tutte le partecipate in perdita che ci sono in Italia, c'è anche l'azienda pubblica che gestisce il Casinò di Venezia. Allora, tutti si sono detti, ma come si fa a rimetterci con un casinò? Cioè, solo lì può succedere. Solo in Italia, sostanzialmente. Tu hai giocato anche all'estero, sei stato a Las Vegas. Ho giocato proprio a Venezia, feci il mio primo storico Final Table World Poker Tour... E sono molto dispiaciuto perché sono legato affettivamente al casinò di Venezia. Deve essere un luogo bellissimo, è uno tra dei l'altro. Luoghi più belli. Pensa che nel casinò, in quel palazzo a Cave Vendramin, è morto il compositore Richard Wagner. Cioè è un luogo anche storicamente importantissimo. Ci hanno girato dei film, credo, delle cose straordinarie a Venezia, esatto. Il tema che mi dispiace molto è che certamente la gestione è stata, come dire, pubblica e non oculata. Mentre io poi ho la fortuna di aver vissuto anche in realtà del gioco all'estero, posso dirti una cosa: a Las Vegas e a Macao esistono due imitazioni di Venezia che hanno riprodotto persino i canali, si chiamano il Venetian, sì. Sono i canali, le gondole, ci sono però 14.000 per persone che vanno a giocare, ristoranti, qualsiasi cosa, queste due realtà sommate fatturano 4 miliardi di dollari l'anno. Cioè l'imitazione di Venezia fattura 4 miliardi e Venezia è in perdita di alcuni milioni. E Venezia perde, ed è perso di nostri, attenzione, questa è una cosa grave. E se perdesse un privato sarebbe secondario, ma un privato non perderebbe. No, ma la cosa assurda è che cioè, soltanto il fatto che io credo, adesso non voglio fare la spalata facile sopra diciamo l'azienda pubblica, no? Però è così, soltanto il fatto che è un'azienda pubblica fa sì che possa essere in perdita, perché non credo ci sia al mondo un casinò che o chiude, esatto, oppure perché magari è messo scattare questa fotografia, hai perfettamente ragione, cioè il fatto che si perda un'attività che è notoriamente in vincita, non sempre, perché poi ci sono dei costi di gestione, però insomma è molto difficile perderci, che perda tanto, il problema, esatto, di Venezia è che perde tanto, diversi perde milioni maniera... di euro, esatto. Ma tu, cioè, fosse per te, no, visto che comunque hai girato il mondo, ne hai visti tanti di casinò, sei anche affezionato al casinò di Venezia e come credo molti, io fra l'altro dico questo, cioè rispetto al gioco d'azzardo, piuttosto che vedere le città italiane invase di slot machine e sale gioco che sono di una tristezza infinita, si chiama gioco ma non c'è nulla di divertente, tanto meglio sarebbe vedere qualche casino, per esempio quello di Venezia, ben funzionante. Come bisognerebbe fare? Bisogna assegnarlo ai privati, secondo me, gli italiani. Io credo che, ma non credo, è noto insomma, che proprio quell'azienda che ti ho citato, che ha interessi a Macao e Las Vegas, che ha ricostruito Venezia per far giocare i giocatori di tutto il mondo nell'ambiente di Venezia, avrebbe tutto l'interesse a rilevare il vero casino di Venezia, figuriamoci. Sarebbero prontissimi a farlo, so che ci sono state trattative che poi sono naufragate per vari motivi, ovviamente questi lavorano all'americana, per capirci, insomma, quindi non c'è niente da spartire con nessuno, non c'è diciamo rapporto con il sindacato dei croupier di Venezia, che era uno dei luoghi di massima, diciamo così, tutela del lavoro, un lavoro estraccato, insomma, per essere chiari. Dei dipendenti comunali che prendono stipendi folli, non sono loro il motivo reale, diciamo così, del collasso del casinò, no. però è un indice, è sempre un indice, insomma, no? Per cui se io faccio l'impiegato comunale a Venezia e faccio i timbri anche se guadagno 1.300, se faccio il croupier di casinò, alla fine dei giochi prendo 5 o 6 mila euro al mese, insomma sono tanti soldi per un impiegato comunale. Allora questo ovviamente non verrebbe permesso. Chi gestisce i luoghi del divertimento, del gioco all'estero, non si sognerebbe mai pagare un lavoratore a quei livelli, e poi ci sarebbero vuole anche fare profitto, insomma, tutte le attività connesse e annesse che ci hai raccontato, cioè negozi, genera ricchezza, tutto questo genera ricchezza. Cioè se ci fosse questo, se ci fosse un privato con Venezia, ripeto, con la reale location veneziana, potrebbe costruire qualcosa di straordinario. Io consiglio a tutti di andarli a guardare proprio su internet queste, queste realtà. Questi hanno ricostruito una cosa di plastica, di polistirolo, finta, però è funziona, perfettamente però vera, funziona. È perfettamente funzionante, ha dentro credo 50 ristoranti, perché è vastissima, una vera e propria città, hanno rifatto Piazza San Marco, hanno rifatto, cioè hanno ricostruito tutto, e ti puoi fare e noi che abbiamo che l'originale ci perdiamo. Senti, fammi dire un'altra cosa, neanche un euro di royalty all'Italia a Venezia da queste operazioni. Cioè, puoi imitare tutto, certo, puoi imitare, se provi a imitare qualcosa per gli americani vedrai cosa ti succede. Gli americani hanno copiato Venezia e non hanno speso un euro di royalty sull'Italia. Vabbè, questo però è incredibile. No. Cioè, se di chi è la responsabilità? Certamente ricade nel pubblico, cioè nel sistema pubblico veneziano, questo è ovvio. Senti, ma sei d'accordo con me sul fatto che piuttosto che vedere cioè i casinò, tu sei un giocatore, quindi come negarlo, diciamo, l'utilità del casinò? Meglio i casinò delle sale giochi e della proliferazione di slot machine in tutte le città? Guarda, per, diciamo, io non sono un giocatore d'azzardo, io sono un giocatore di poker e gioco sulla probabilità e mai sull'azzardo, cioè non giocherei mai contro quota. Il vero dramma in Italia è che la gente gioca a giochi che sono tasse. Cioè le slot machine sono tasse, servono solo per pagare le tasse, sono tasse, certo. Ma sono tasse perché tu non puoi vincere, è matematicamente impossibile che tu vinca. Sì, certo, c'è ogni tanto il caso del singolo, no, che vince il superenalotto, ma intanto sono miliardi di schedine giocate dove la probabilità, cioè il giocatore di poker sta a calcolare le probabilità. Io quando gioco con te, se gioco con te a poker, ti batto perché sono più bravo. Sicuro. Ma per la legge italiana è uno skill game, è un gioco d'abilità. Se io e te compriamo un gratta e vinci, abbiamo la identica probabilità di vincere l'uno o l'altro, ma sicuramente daremo il 50% dei nostri soldi allo Stato, salvo casi eccezionali. Quindi è una tassa, fondamentalmente, una tassa tra l'altro sullo strato meno abbiente della popolazione, perché chi non si compra i gratta e vinci non vanno a giocare alle video lotteries. Quindi questo è il vero problema. Su un monte gioco di 80 miliardi di euro in Italia, sì, perché gli italiani spendono 80 miliardi di euro, moltissimi soldi vengono presi dalle tasche delle classi medie e basse, e questa è la cosa più grave. Bisognerebbe insegnare una cultura del gioco che allontana dal gioco d'azzardo, io sono contro il gioco d'azzardo, e consegna al gioco d'abilità, che è un gioco secondo me molto più divertente, molto più appassionante, certo, e anche molto più emozionante. Nei casinò si fa quello, insomma. Quindi viva i casinò, abbasso le slot machine da bar. Viva i giochi d'abilità. Chiaro che se io alla roulette al casinò ho diciamo un vantaggio del banco del 2%, e quando gioco all'otto in Italia c'è un vantaggio del banco del 40%, tu capisci che insomma è facile capire a cosa è meglio giocare, insomma, sì, no? Sì, sì, sono d'accordo con te su questo. Facile. Non farsi fregare, ecco, questa è la cosa più importante. Non farvi fregare pure dal gioco, insomma, pure dal gioco. Perché il gioco può fare molto male, fatemelo sottolineare questo, può fare molto male, può rovinare, e rovina senza possibilità di salvezza se non siete svegli. Senti Mario, un'ultima cosa prima di salutarci. Tu hai scritto che non hai partecipato al gioco, diciamo, a favore della SLA, di tirarsi un secchio d'acqua gelata, perché secondo te è una buffonata. Però io invece ho detto, sono stati raccolti tanti bei soldini, e se si è parlato della SLA è anche per questa, che è ovviamente una buffonata. Ma non hai partecipato perché non ti ha nominato nessuno? No, mi ha nominato un caro amico insieme ad altre due persone del Partito Democratico. Quando mi hanno nominato ho scritto non che non volevo partecipare a una buffonata, ma che consideravo chi l'ha fatto bene merito, non c'ho nessun problema. Penso che c'era una sincera volontà di raccogliere soldi per la SLA, ma anche forse una problematica di autopromozione. Io non me ne frega niente di farmi l'autopromozione, e soprattutto conosco qualche malato di SLA che non era, diciamo, simpatizzante di questa iniziativa, e quindi ho deciso, senza voler fare polemica con nessuno, di evitare di secchiare l'acqua in faccia. Grazie mille, buona serata, ciao, e buona estate, Mario Di Nolfi. Ciao, ciao, buona serata. 800 24 00 24, riprendiamo dopo il giornale radio, tra poco. Si può fare! sì, la televisione. Scusa, mi sono distratto, di che segno sei? Io sono un pesci fuor d'acqua e vorrei essere un DJ. Non mi aspettavo di vincere perché, perché penso e sono convinta tuttora che c'erano bime molto più belle e che io avrei fatto vincere, però sono contenta. Lei è Chioma Ukwu, quindicenne, livornese, di origini nigeriane, eletta Miss Livorno qualche giorno fa e subito dopo la sua elezione, perché lei ha la pelle scura e di colore, qualche povero stupido ha pensato bene di scrivere delle offese su alcune bacheche Facebook del quotidiano locale Il Tirreno e altre. Subito, per fortuna, è stata difesa da tutti, che ormai sanno che insomma vabbè, basta, non c'è neanche bisogno di dirlo, ma perché dobbiamo dare retta agli stupidi? Essere italiani che cosa vuol dire? Vuol dire essere nati in Italia, non avere la pelle bianca, essere nati in Italia, sentirsi italiani, parlare italiano, anche se c'è un riflesso condizionato duro ad essere abbandonato. Lo vogliamo risentire Salvini quando qualche sera fa, scherzando un po' sì un po' no, però diceva: io sono stufo di vedere in campo giocatori stranieri nel mio Milan. E sentite un po' chi ci metteva tra gli stranieri. Non vorrei fermare le lancette della storia, però neanche vedere squadre con 11 stranieri in campo, di cui la metà squadra scarsi e sconosciuti, mentre i ragazzi del nostro vivaio non riescono a giocare neanche un quarto d'ora. Indubbiamente. Preferirei avere 11 ragazzi della primavera in campo che perdono col Milan, piuttosto che 11 Robinho o Balotelli in campo. Cioè, Balotelli per lui è uno straniero, gli sarà sfuggita. Sicuramente adesso che non gioca più nel Milan, Salvini sarà contento. Sentiamo ancora la ragazza Chioma Ukwu. Ostacolare un sogno di una bimba di 15 anni solo perché è di colore. Dire che una persona non può partecipare a una cosa solo perché è diversa da te, penso che sia da persone ignoranti. Comunque io... me ne frego, sinceramente. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella da desiderare. Sei troppo bella. Abbiamo sentito in apertura il preside del liceo Parini di Milano, Pedretti, che ci ha detto bellamente: l'insegnamento di una materia in lingua inglese nel nostro liceo, come previsto dalla riforma Gelmini, a settembre non partirà. Non abbiamo gli insegnanti formati per parlare l'inglese. Sono passati quasi 20 anni da questo. Noi dobbiamo licenziare dalle scuole soltanto dei ragazzi che possano realizzare se stessi non soltanto da noi, ma in Europa e nel mondo. Ho parlato diverse volte delle 3 I, impresa, internet, informatica, inglese. Io non credo che oggi noi possiamo avviare un giovane nel mondo del lavoro che lo attende se questo giovane non porta con sé queste conoscenze. Insomma, che noi italiani abbiamo bisogno di studiare l'inglese ce l'ha dimostrato qualche giorno fa, suo malgrado, anche Matteo Renzi. My personal experience, Europe was my mother who cried in the TV when she felt the Berlin Wall's destroyed by the people. Nobody won. Ho 2 sogni nel cassetto, 3 nell'armadietto. Io sono assolutamente favorevole perché la prostituzione sia normata, perché se c'è l'autodeterminazione, se una donna, certo a me donna dispiace che ci siano donne e uomini che vogliono vendere il proprio corpo, ma non ho una visione così utopistica da pensare che eliminiamo la prostituzione. E tu dove vai a ballare? Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia. Tremulo come una foglia, foglia, foglia. Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru, perché può capitare che si stacchi e venga giù. Ehi turista, so che tu resti in questo posto italico. Attento, tu passi il valico, ma questa terra ti manda al manico. Mio, mare adriatico e io, mio, vuoi respirare lo iodio? Ma qui nel golfo c'è puzza di zolfo che sta arrivando il demonio. Abbronzatura da paura, quella di ossia. più rose di mil, vedo cosa mi dà la pimpa. Nella zona spacciano la moria più buona, c'è chi ha fumato i veleni dell'Eni, chi ha lavorato ed è andato in coma. Fuma persino il Gargano con tutte quelle foreste accese. Tu hai stato balli e tu canti, io conto i defunti di questo paese, dove quei furbi che fanno le imprese non badano a spese, pensano che il protocollo di Kyoto sia un film erotico giapponese. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia. Oh, vieni a ballare in Puglia, cantava Caparezza. E adesso però in Puglia la nuova moda è che ci si va a fare la festa di matrimonio, ma non una festa di matrimonio qualunque, una festa di matrimonio reale, imperiale, mega galattica. Gli invitati alla festa di matrimonio di due indiani, pensate, è stato calcolato che rappresentano il 20% del PIL dell'India, una cosa pazzesca. Però c'è anche spazio per qualche polemica. Ne parliamo con il sindaco di Fasano, Lello Di Bari. Buonasera. Buonasera. La polemica è questa, sindaco, che di fronte a un evento così faraonico, che tra l'altro dimostra positivamente come la Puglia, qualcuno dice la California italiana, sia una regione, sicuramente avete un feeling con l'India, ma insomma scelta come luogo per festeggiare il matrimonio di questi due importanti famiglie indiane. Chi sono intanto queste famiglie? Allora, guardi, intanto buonasera a tutti, grazie per avermi chiamato, e vorrei fare una premessa che credo sia fondamentale proprio per una polemica che è nata, una polemica sterile, ma che comunque è nata e sta interessando questo grande evento che avremo fra qualche giorno. La mia amministrazione comunale, io sono sindaco dal 2007. Sì, però sindaco, risponda alle domande, se no così non andiamo avanti. Non vada alla polemica, non si preoccupi, ci arriviamo con calma. Mi fa premettere che no, io non sono solidale con la situazione dei Marò. Ma no, no, allora... non l'ho ancora citato, ma no, non importa. Ha parlato di polemiche, scusi. Sì, perché qualcuno avrà letto sui giornali, creiamo un po' di suspense ogni tanto anche con le notizie. Comunque... Intanto questo territorio di cui lei stava parlando, come la California italiana, è un territorio, questo di Fasano, che nel corso di 12 anni, grazie a un'imprenditoria privata che è stata coraggiosa e capace, e grazie alla linea politica che abbiamo impostato dal 2002 a venire fino ad oggi, è stata capace di trasformare quello che era un bellissimo territorio in un territorio ad altissima valenza turistica, tant'è che se è vero come è vero che l'anno scorso abbiamo raggiunto le 530.000 presenze turistiche, siamo stati la sesta località della Puglia. Ok, senta sindaco, ma lei dov'è, al parco giochi con i bambini? No, io sono in piazza. In piazza, perché sentiamo una grande festa intorno a lei e ci fa piacere. Va bene, la sesta località della Puglia. La Puglia è una regione che dal punto di vista del turismo va alla grande, va benissimo, e la conferma arriva da questa, dalla scelta. Ma no, non di questa. Da questa. Noi sì, vabbè, due però... anni fa, due anni fa il matrimonio di Justin Timberlake, sì, da noi. Sì. Abbiamo avuto altri matrimoni illustri, questo logicamente è un matrimonio che sta facendo... Io capisco che lei voglia abbassare i toni di questa cosa perché la polemica la preoccupa, però a noi la polemica ci preoccupa fino a un certo punto. Intanto mettiamo i puntini su lei. Allora, di cosa stiamo parlando? Perché chi ci ascolta non ha ancora capito niente. Allora, lo dico io, se non lo vuole dire lei. Si sposa la figlia del magnate Agarwal e canterà Shakira a questo matrimonio, e tra gli invitati ci sono i più grandi industriali indiani, 800 invitati se ho capito bene, no, 2000, quanti sono 800 invitati. Ci sono 1000 persone fra maestranze ed altre che vengono dall'India, perché faranno tutto loro, la cucina sarà indiana, il rito sarà quello loro, chiaramente quello indiano, il tutto però in un... i due elefanti che stanno arrivando dall'India proprio per il rito nuziale, che contempla anche la presenza degli elefanti. Beh, certo. Il tutto in un resort, però, questo sì, di Fasano a 5 stelle, bellissimo, immaginiamo, che ospiterà questa cosa. Sì, ci saranno tre serate di feste, in tre location diverse. Una è questo resort che ospiterà gli ospiti, il Borgo Ignazia. Sì. Poi ci sono altre due location, sempre del gruppo Mettignano, dove saranno fatte altre feste. In più, la cerimonia nuziale sarà fatta in contrada Pettolecchia, in un'altra zona, in un grande uliveto con ulivi millenari che già altre volte è stato utilizzato per lo stesso scopo. Io credo che questa polemica sia abbastanza infondata, perché si tratta non di istituzioni indiane che vengono lì, ma di liberi cittadini privati che vengono a festeggiare la festa. E quindi non vedo perché... Il problema... Ecco, però qualcuno le ha detto, dei rappresentanti dell'esercito, che lei, per la questione dei due Marò, dovrebbe far presente agli invitati qualche cosa, andare quantomeno con il fiocchetto giallo, quello che esprime solidarietà nei confronti dei Marò, e altre cose. Che cosa le hanno chiesto, sindaco? Allora, guardi, io vorrei approfittare di Radio 24, che è una radio molto seguita, per chiarire definitivamente questa storia, perché si è detto che io sono stato invitato o sarò invitato a queste cene, però c'è un dato che parecchi ignorano, che io, per la legge Severino, per aver subito una condanna per abuso d'ufficio in primo grado, sono momentaneamente sospeso dalle funzioni di sindaco. Colpo di scena! Colpo di scena. Sono sempre il sindaco della città, però non posso partecipare come figura istituzionale a manifestazioni. Quindi lei si è tolto dall'impiccio, così, con la legge Severino. Posso partecipare come persona ride, privata. Ride, il sindaco ride. Come persona privata invitata amichevolmente da qualche parte. Ma sì, nella mia veste istituzionale di sindaco, che pur mantengo come carica, ma sono momentaneamente sospeso nelle funzioni, non posso partecipare. Comunque glielo darà un saluto a queste persone o no? Ma mi incontrerò privatamente probabilmente, sì, per salutare, e approfitterò anche per manifestare a queste persone, che sicuramente non c'entrano niente, come ha detto lei, perché non, sì, sono figure istituzionali. E questo secondo me è il punto, cioè immaginatevi la scena, tu sei un cittadino italiano che va in vacanza in America, e arriva uno che ti dice: guarda che però voi, il vostro governo ha fatto questa cosa contro di noi. E io cosa dovrei pensare? È il mio governo? Sì, però non è che sono io il governo, e quindi è un po' fuori luogo questa polemica. Però in tutte le interviste di questi giorni, sì, ho anche detto che una situazione che il governo italiano non riesce a risolvere, sicuramente non la può risolvere un piccolo sindaco di un paese di provincia, anche se non sono un piccolo. Ma no, poi risolverla ci mancherebbe altro. Confidenze, perché tanto lo sentiamo solo io e lì. Le hanno chiesto semplicemente di fare presente qualche cosa, addirittura qualcuno ha chiesto di non ospitarlo, però questo lei non può farlo. Perché assolutamente, questo è un fatto privato, che viene fatto in strutture private, non utilizzano assolutamente territori del comune. Ecco, non questo è importante. Soldi del comune, ci mancherebbe altro. Cioè voi non spenderete una lira, anzi semmai forse entrerà qualcosa nelle casse indirettamente della città. Indirettamente, insomma, sì, perché c'è gente che sta lavorando a questo evento, c'è gente del posto che sta lavorando. Che poi magari, se va tutto bene, si comprano anche l'Ilva, perché gli indiani sembra che siano interessati, il signor Mittal, quello dell'acciaio. Oltretutto il ritorno non è solo sul territorio di Pasan, perché stanno lavorando, per esempio, spedizionieri. Qui sono tre giorni che c'è un traffico di tir che portano materiale che viene utilizzato per montare accampamenti, per montare un enorme gazebo che si fungerà da cucina, un enorme gazebo per la preparazione floreale. Sono tir di trasportatori italiani, quindi non della zona, per cui gli effetti si stanno riversando già sul territorio italiano più che sul territorio fasanese. Certo, però sarebbe bello che lei andasse, magari anche senza dire niente, però col fiocchetto giallo, questo sì, cioè allora che loro si chiedessero chissà che cos'è quel fiocchetto giallo, allora potrebbe essere un modo per interessarli di questa, cioè perché lo sappiano magari, questo ma sì. Guardi, io mi vedrò intanto con loro in questi giorni, però mi vedrò in forma privata, non in forma istituzionale. Se loro mi confermeranno un invito in forma privata, come inviteranno Lello di Bari, non il sindaco di Fasano, io avrò piacere di andare, ci andrò anche col fiocchetto giallo, posto in forma privata, perché ripeto, in forma istituzionale non posso partecipare a questa cosa. Certo, questa qua della legge Severino però è stato un salvataggio in corner, perché altrimenti sarebbe stato un bel pasticcio. Avrebbe avuto sicuramente una parte della cittadinanza che le rimproverava questa visita ufficiale. La visita ufficiale sarà. La cittadinanza assolutamente. Capisce benissimo che è tutto pretestuoso, così come stavo dicendo lei prima, che non c'entra niente. Sì, questo è quello che penso io, però magari non è che la pensiamo tutti allo stesso modo, immagino che no, ci sarà qualcuno. La cittadinanza la pensa in questa maniera, poi l'Italia c'è chi la pensa in modo diverso, no? Perché ho avuto un po' di mail che mi dicevano che dovevo vergognarmi per aver permesso un matrimonio sul mio territorio. Senta, un'ultima cosa, sindaco, ma perché secondo lei proprio queste persone hanno scelto proprio il vostro territorio, proprio Fasano? E Perché ormai Fasano, grazie a Borgognazza, quel villaggio, quel resort di cui parlavamo prima, che ha 600 posti letto e che le consiglio di andarci a vedere su YouTube. E ormai è io solo vedere posso, credo, perché a quel livello di spesa credo che non me lo posso permettere, però vedere non costa niente, quindi quel resort è a livello internazionale ed è una, a livello internazionale, una calamita, attenzione del mondo. Noi ormai ripeto, abbiamo matrimoni da tutto il mondo qui. L'altro giorno abbiamo avuto la nipote di Armani, circa un mese fa, hanno scoperto 2 anni fa Justin Timberlake, abbiamo avuto Beautiful, gli attori di Beautiful che hanno girato qui da noi, proprio grazie a quello che siamo riusciti a fare in questi 12 anni. Va bene, in bocca al lupo, grazie, sì. Buona serata e buona estate. Grazie anche a lei, Lello Di Baro, sindaco di Fasano. Sentirsi con un papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Si può fare, l'attualità, anche d'estate. 800 24 0024, c'è Marco che ci chiama dalla provincia di Verona, buonasera, benvenuto. Buonasera, da Verona città. Va bene, da Verona città, Marco, vada. Io sono un medico emerito, lei ha parlato di Salvini e i suoi opinioni, secondo Salvini anche io sono uno straniero. Sì. Anche se sono italiano da 40 anni, ho curato tanta gente nel Veneto, nessuno mai mi ha rinfacciato che sono foresto, come si dice qui. Foresto. Allora Salvini si sbaglia, lui non ha nessuna immaginazione quanta gente lavora qui con apprezzo e fiducia, sono ingegneri, medici, insegnanti, scienziati. Io conosco qui a Verona medici albanesi, danesi, tedeschi, parlo del mio campo, che sono molto apprezzati dai pazienti italiani. È proprio qui, nel Veneto. E poi questa cosa che gli italiani sono razzisti, bah, è una balla grossa come una piramide di Ope. Basta guardare i bar, negozi, gli ospedali e chi li frequenta? Questi ambienti. Va bene, Marco, lei ha un eco che sembra che ci stia chiamando dall'oltretomba. Comunque grazie, abbiamo capito benissimo quello che dice. Giuseppe dalla provincia di Varese. Non lo so, io poi lì Salvini l'ho detto, se mi scusi Giuseppe, se, se gli è scappata o se è stata volutamente un po' maliziosa la battuta su Balotelli che calciatore straniero. Credo che sia un po' maliziosa. Sarebbe stato interessante chiederglielo. Comunque, va bene. Giuseppe, prego. Sì, volevo provare la mia esperienza riguardo al metodo CLIL, l'insegnamento d'inglese nelle scuole elementari. Al metodo CLIL? Sì, l'insegnamento d'inglese nelle scuole elementari. Sì. Noi abbiamo finanziato privatamente una scuola pubblica del Varesotto. Noi chi, scusi? Abbiamo creato un'associazione, 15 sì. genitori, 15 famiglie, per finanziare il progetto CLIL. Per 2 sessioni, quindi bambini del 2005 e del 2006. Cioè, siccome non c'erano anche lì i fondi, l'avete fatto voi famiglie? L'abbiamo fatto noi, esatto. Noi famiglie, noi 17 famiglie per tutti i bambini, che sono circa 160 bambini dalla prima di un anno e 80 bambini dal successivo. Nessuna di queste famiglie ha potuto mettere un euro, perché il progetto era autofinanziato dalla nostra associazione. A queste famiglie abbiamo chiesto però se potevano contribuire con qualsiasi cosa, anche un euro al mese, per finanziare il progetto per gli anni successivi. Quindi, sì. Esatto. Su 230 famiglie abbiamo ricevuto un finanziamento, un contributo. Quindi, mano corta, mano molto corta. Molto corta, molto corta, quindi non è di italiani, almeno però guardi, i concittadini non sono interessati sì. al... No, al... i nostri concittadini pensano, a torto o a ragione, che debba essere dovuto dallo Stato che tiene in piedi la scuola attraverso le tasse, eccetera. Io però capisco anche il vostro approccio di associazione che dite, vabbè, se lo Stato intanto non lo fa, cosa facciamo? Assistiamo al fallimento oppure proviamo a metterci una pezza per un po'? E secondo me avete fatto benissimo a metterci la pezza e avrebbero fatto bene anche qualcuna di queste 230 famiglie a tirar fuori qualcosa, e sicuramente tra 230 famiglie qualcuna un pochino più benestante c'era, dai. Direi che c'è almeno il 50%, ma avrebbe fatto fatica a tirar fuori qualcosa. Senta, ma adesso i vostri figli che classe fanno? La mia va in quarta. Quarta elementare? Sì, quarta elementare. E quindi continua l'insegnamento sì, di una materia? Noi abbiamo finanziato 5-10 anni di inglese. fece tutti i cinque anni della classe di mia figlia, sì, e tutti i cinque anni della classe dell'anno successivo, quindi del 2006, quindi quelli che adesso andranno in terza. Quindi loro hanno un insegnante che insegna in inglese. Sì, che insegna in inglese, il primo anno ha fatto 3 ore soltanto, il secondo 4-5, adesso iniziamo a fare 6 ore di inglese con un paio di ore, o forse 4, con la madrelingua. Bravi, bravissimi. Penso che sia un'esperienza divertente, utilissima. Utilissima, sicuramente, perché lo vedo in vacanza che la bambina parla senza problemi, insomma parla, è un po' più spiegata di quanto lo ero io alla sua età, ecco, sicuramente. Sì. E poi speriamo anche che arrivino i soldi del ministro Giannini, questo sì per tutti, perché non è che voi ci avete messo una pezza, però, e poi ci deve essere anche una risposta di più grande, diciamo, respiro. Grazie, buona serata. Andiamo con Margherita che ci chiama da Modena. Buonasera. Buonasera. Dunque, io sono un po' confusa perché ho sentito tutte le vostre notizie attraverso il telefono, quindi non so nemmeno più qual era l'argomento. Ce ne sono troppe, ce ne sono troppe. Cosa aveva in testa quando ha telefonato? Torniamo alle origini. Ha fornito talmente tante notizie che io sono un po' confusa, perché sono notizie tutte importanti. Innanzitutto, le volevo, e non è arruffianarmi nei suoi confronti, assolutamente no. Da quando c'è lei io ascolto la sua trasmissione con molta gratitudine nei suoi confronti, perché sta facendo una trasmissione finalmente civile. Vale, mi fa piacere che a lei piaccia, questo sono contentissimo, spero anche agli altri. Moltissimo, la sua civiltà e la sua intelligenza fa onore alla sua categoria. Cosa che non fanno le altre persone che non voglio nemmeno nominare, perché mi disgusta solo parlarne. Tant'è vero che ho ricominciato a sentire questa trasmissione da che lei fa la trasmissione. Non vedevo l'ora che altre persone andassero in vacanza. Ah, va bene, che si possano godere una deliziosa vacanza. Comunque, volevo dire, a proposito della prostituzione, sì. Allora, io sono donna, sono nonna di una femmina, come si può parlare della prostituzione così? Ma lo so, ragiono in maniera vecchia, perché dico, ma gli uomini non potrebbero fare del sesso non a pagamento. Lo so, ma non si pensa a tutte quelle povere disgraziate che sono preda dei racket e che vanno sulla strada. No, ma lei ha ragione, Margherita, è vero, però credo che chi voglia legalizzare non sia un nemico delle donne da questo punto di vista. Sicuramente c'è un po' di realismo, forse un po' di cinismo, ma non c'è cattiveria, è solo una presa d'atto, ha capito? Non c'è realismo, c'è cinismo solo, perché il modo con il quale il merito dottor Cruciani espone queste situazioni quando ne parla, io ogni volta che lui ne parla io rabbrividisco e faccio fatica poi ad ascoltarlo, non ce la faccio più ad ascoltarlo. Ma questo adesso non c'entra nulla. Margherita, ho capito il suo punto di vista su questo, lei comunque non è favorevole quindi a questa ipotesi, diciamo, di legalizzazione. E l'argomento l'ha detto, il suo motivo l'ha detto. Vuole aggiungere qualcos'altro? Poi ci salutiamo. Chiudo con questo. Sì. Io una sera ero presente ad una recensione di un libro dove si parlava appunto della prostituzione in Emilia, sì, Romagna. Eravamo un gruppo di donne e c'era un gruppo di uomini, addirittura degli uomini che sognava appunto il ritorno della prostituzione, perché quando dovevano dare gli esami all'università si trovavano diciamo nelle case di tolleranza che erano coccolati dalle signore che avevano prestato prima la loro opera come prostitute, li coccolavano e loro sentivano la nostalgia di questo. Vabbè, ognuno periodo. Poi c'ha la nostalgia che si merita. Margherita, grazie. Lei che mi sembra una persona, sì, rigorosamente e intellettualmente. Guardi, io non ho vissuto ai tempi in cui era consentito o erano aperte le case chiuse, quindi non posso avere questa nostalgia. Però non lo so, forse arrivo anche a capire quegli uomini di cui parla lei, ma il mondo è libero da questo punto di vista, ognuno fa quello che gli pare. Io credo che legalizzare in trasparenza non sia una cosa che faccia male alle donne che fanno la prostituzione, perché Laddove ho visto, per esempio in Olanda, ma anche in Germania non l'ho visto, che questo avviene, non mi sembra che come dire, che tiri un'aria di sfruttamento della prostituzione e di quello che diceva lei di negativo sulle donne. Forse tira un'aria un po' migliore da questo punto di vista. Quindi sarebbe, io credo, anche una buona notizia per le donne, al di là del discorso fiscale, prendere qualche tassa in più o in meno, che questo forse ha ragione lei, è meno rilevante. Andiamo con Marco che chiama da Torino. Marco è caduto. Allora andiamo invece, dove andiamo? In Trentino, no? Dov'è la secca? Pubblicità. Poi andiamo in un centro d'accoglienza dove qualche giorno fa c'è stata una protesta da parte di alcuni immigrati. Sì! Facile capire perché abbiamo scelto la canzone di Bennato, Il paese dei balocchi, perché secondo alcuni, molti forse italiani, gli immigrati arrivano in Italia e cercano il paese dei balocchi, e quindi quando vengono messi per esempio in un centro di detenzione di prima accoglienza, come si chiama, dove passa il tempo prima che venga decisa l'accettazione di una domanda di asilo, ai profughi non piace la pasta, gomme tagliate ai volontari. Questo scrive Libero, e questo sarebbe quello che è accaduto in un centro alla Secca, frazione del comune bellunese di Ponte nelle Alpi. Però un altro giornale, Il Gazzettino, scrive così: in 40 con un solo bagno scoppia la protesta dei profughi. Capite che sono due notizie date in modo diverso. Allora noi chiediamo a Don Gigetto De Bortoli, buonasera intanto. Buonasera agli ascoltatori di Radio 24. Che è un educatore, un insegnante, un giornalista, tante cose, però è anche presidente e fondatore del CEIS, il Centro Italiano di Solidarietà di Belluno. Che avete in gestione questo centro di accoglienza? Abbiamo messo a disposizione degli ambienti su richiesta della prefettura, tra l'altro venendo incontro ad una difficoltà di ospitalità nel comune di Belluno, dove erano abbastanza numerosi e mal sistemati. Noi abbiamo messo a disposizione una struttura che era destinata ai tossicodipendenti per la fase del rientro e abbiamo allestito una casa di accoglienza e di ospitalità per appunto i profughi. Naturalmente era una casa accreditata per 25 persone, quindi compagni, per gli aspetti terapeutici, quindi non è assolutamente stata corretta l'informazione che è venuta da parte degli ospiti. Senta, io ho detto così, che Libero ha scritto: ai profughi non piace la pasta e scoppia la protesta. Invece Il Gazzettino aveva scritto: in 40 con un solo bagno scoppia la protesta. Sono due modi diversi, secondo me, di dare questa notizia. È ovvio che sono due modi diversi. A lei chiedo però di raccontarci che cosa è successo. È successa una cosa abbastanza strana. La nostra associazione ha fatto dei progetti, tra l'altro di inserimento, di ospitalità, di case con congiungimento familiare nella provincia di Belluno, pari a circa 1400 persone, naturalmente con dei progetti che erano a vantaggio dei bellunesi perché c'era la fideiussione. In questa difficoltà la nostra professionalità si è subito messa in mostra, anche perché abbiamo delle persone che parlano, che hanno avuto capacità di gestire questo. Nel momento in cui sono arrivate le persone, le abbiamo accolte, naturalmente sono arrivate a gruppi abbastanza rapidi ed è sempre difficile poter dare tutte quante le risposte possibili e immaginabili, quindi in pochi giorni abbiamo dato non soltanto l'alloggio, il vitto, anche i vestiti e tutto ciò che serve, comprese la scuola, perché tre giorni dopo che erano arrivati abbiamo già continuato la scuola, abbiamo fatto le visite eccetera. Si sono inseriti alcuni amministratori del comune, così, forse non conoscendo bene le cose, sono andati a raccogliere lamentele all'interno o anche al di fuori della casa di coloro che erano lì, ma all'interno. Quindi scusi, intanto io avevo capito male, non si tratta di un centro di accoglienza nel quale si attende la risposta per la domanda di asilo, è un'altra cosa. Certo, certo, c'è anche questo. Allora, lei sa che ci sono i grossi centri di accoglienza in prossimità, sì, delle coste dove arrivano, poi altri nelle regioni, certo, da lì vengono presi delle persone che vengono inviate tramite la prefettura che stabilisce degli organismi, dalla Caritas. Quindi si tratta di chi si tratta questi immigrati, questi 40 immigrati, quanti sono, 40? No, allora, lì sono arrivati in 40, ma non sono mai stati 40, sono disposti in tre ambienti, sì, quindi le persone sono accolte con questa caratteristica, se sono soltanto uomini, abbiamo posti se ci sono anche delle donne o dei bambini, infatti la nostra caratteristica... Scusi, è che però allora, perché io adesso mi sto perdendo, le ho chiesto di raccontare quello che è successo, lei l'ha presa un po' larga. Allora, il Gazzettino scrive 40 immigrati in una stanza... Ma che assolutamente no, sono 8... No, scusi, in 20 dormono in una stanza, sono in 40 in un luogo dove la capienza è 20-24 persone. Assolutamente no. Le persone possono stare tranquillamente lì fino a 30 e 40 persone. Naturalmente... Quindi la capienza di questo centro La Secca quant'è? La capienza diciamo formale, ufficiale? La capienza formale è di 35 persone, d'accordo, okay, con la prefettura. E quante ce n'erano in quel momento quando è scoppiata la protesta? Erano meno di 35 persone. Quindi non era neanche vero il numero 40? No, non era numero, perché tutte le informazioni che sono state date sono state raccogliendo soltanto la parte che veniva... Di queste lamentele, sì, che sono state, secondo lei, artatamente, esatto, messe su da chi? Dai consiglieri comunali? No, le lamentele sono state messe in moto da alcuni ospiti, che tra l'altro facevano un po' i capi all'interno, che hanno trovato modo di avvertire il comune, che è venuto e ha raccolto le loro testimonianze. Mm-hmm. E per cosa si lamentavano? È vero quello che scriveva Libero, che si lamentavano perché i pasti erano monotoni? Sì, si sono lamentati esattamente di questo, ma questo non corrisponde al vero, perché avevano tanto di menù, tra l'altro, sì, segnalato alla prefettura, con tutte le cose che ci sono. E quindi poi che è successo? Hanno inscenato questa protesta, sono scesi per strada e vi hanno tagliato le ruote delle gomme, anche a lei? No, no, no, assolutamente, delle auto di servizio, dei pulmini di servizio. E poi è venuta naturalmente su questa protesta, è intervenuta la polizia che ha fatto la mediazione e quindi le cose si sono sistemate, anche perché alcuni di loro naturalmente stavano dicendo cose che non erano esatte, quindi sono stati ridimensionati. Cos'è che dicevano che non era esatto? Tutte le cose che avevano comunicato, che anche i giornali avevano raccolto, non corrispondevano al vero. Ma per esempio, mi faccio un esempio, mi dica lei, cos'è che hanno detto che non era esatto? Sui cibi, sui vestiti, sulle, sì, possibilità di telefonare, sulle visite che non erano state fatte, invece tutto questo era organizzato. Quindi voi, diciamo, dal vostro punto di vista avete la coscienza assolutamente a posto. E come si spiega allora questa insurrezione, mini insurrezione? Ma che non è una insurrezione, è che è stato dato terzo esattamente a delle lamentele. È stato dato, scusi? Chiamati dentro anche i giornalisti e i fotografi, sì, da un certo punto di vista, creando una situazione paradossale. Allora, però scusi, se i giornalisti sono entrati dentro, poi però lei smentisce tutto quello che è stato scritto. Le informazioni che venivano da una sola parte, io sono giornalista e lì sono andati con gli assessori, hanno fatto un'intervista alle persone senza dire niente a me. Lei immagini che lei sia un'azienda, che ne so, la Luxottica, io sono un piccolissimo cittadino che ha però 40 dipendenti con tutte le cooperative e le attività, sì, che stiamo facendo, una persona entra dentro, però, scusi, raccoglie le informazioni. Sì, ho capito, dovevano chiedere a lei, però se io entro dentro e vedo 40 persone in due stanze, non c'è bisogno che chieda, se lo vedo, lo vedo. Mi scusi. Però questo, se non lei dice che non è vero, non evidentemente piani, non è vero. Mi scusi, sono 5 i piani a disposizione, con tanto di cucina, vani e altre cose di questo genere qui, quindi non è assolutamente possibile. Quindi insomma lei se la spiega tutto questo col fatto che queste piccole lamentele che c'erano sono state poi sgonfiate da chi? Dalla stampa, dai giornalisti? Non sono state gonfiate dalla stampa e dai giornalisti, io sono giornalista, a un certo punto sono state date delle informazioni che non corrispondono al vero, io ogni giorno delle persone che arrivavano ho sempre dato l'appuntamento alle ore 17 del pomeriggio per dare le informazioni. Sì, ma no, io le ho fatto un'altra domanda. Lei come si spiega che c'è stata questa insurrezione dentro il centro, il suo centro? Cioè, perché è successa questa protesta? È successa perché all'interno dei gruppi ospitati sì. ci sono delle persone che fanno i capi, che cercano di mettere in moto delle dinamiche di difficoltà relazionale. Per accreditarsi quindi, loro come capi all'interno, dice. E per farsi valere su certi aspetti, e quindi sono riusciti a trovare la maniera di comunicare all'esterno, ma sono liberissimi di andare dove vogliono naturalmente, e c'è stata questa risposta positiva, per cui a un certo punto noi che abbiamo ospitato siamo diventati persecutori, con qualche assessore che diventava difensore, naturalmente salvatore, e loro le vittime. Questo è il meccanismo che si è messo in moto, che noi ci siamo tra l'altro accorti subito, dato che gestiamo da tanto tempo i tossicodipendenti. Senta, una cosa le voglio chiedere ancora, voi come funziona la convenzione con la prefettura? Cioè avrete un rimborso per ogni immigrato, per ogni notte allora, trascorsa? Il rimborso per ogni immigrato è di 27,50 euro e bisogna garantire vitto, alloggio, formazione, accompagnamenti, accompagnamenti naturalmente anche a fare le visite in ospedale e altre cose, soprattutto le attività sociali, soprattutto anche in collegamento con l'ambiente per vedere quello che è possibile fare e se restano, perché molti su 90 che sono arrivati, oltre la metà sono andati via, quindi poter vedere per il futuro quando restano. Va bene, grazie, buona serata Don Gigetto, grazie. Buona serata, buon ascolto. 800 24 00 24 è insomma una vicenda piccola ma complessa e sicuramente insomma una storia che non è andata a lieto fine, perché laddove si cerca di fare accoglienza, poi ho sentito come va a finire, si cerca di fare accoglienza spendendo anche denaro pubblico, il risultato poi è stato questa protesta, secondo Don Gigetto inscenata anche per motivi diciamo che nulla hanno a che fare con la reale qualità, vogliamo dire, del servizio, insomma dell'accoglienza poi offerta là dentro. Andiamo con gli ascoltatori ancora in attesa dei titoli dei telegiornali. Gennaro da Firenze, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera a tutti e tutti gli amici in ascolto. Senta, allora io ho una nota di disappunto appunto su questa questione indiana, perché ho vissuto un po' in India e ho visto un po' un attimo le condizioni economico-sociali che si vive in questo paese. Allora, questi signori praticamente vengono a fare un matrimonio sfarzoso qui da noi, bene, nulla questio, ma si sono resi conto di quello che effettivamente fanno a livello collaterale ai loro concittadini, conterranei? Cosa intende, scusi, per livello collaterale? Il collaterale è semplicemente che praticamente in India si muore ancora di fame. Spendere milioni di euro in questo modo, gratuitamente, okay, alle spalle anche di questa gente, non ritengo che sia una cosa socialmente poco qualificante, specialmente eseguita e fatta da magnati come questa gente. Sì, ho capito quello che lei dice, l'ha presa da un altro punto di vista e forse non ha neanche tutti i torti. Ci fermiamo per una piccola pausa, torniamo tra un attimo. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare l'attualità anche d'estate. I leader della maggioranza su questo tema. Ne è uscita una Babele, c'è forte tensione, tanto che si prospetta un incontro serale, un altro domani tra Renzi e Orlando per rimettere in sesto la situazione. Ma ancora una volta si parla di dissensi aspri sui termini della prescrizione, di dissensi sul tema delle intercettazioni, di dissensi sulla responsabilità civile dei magistrati, i soliti temi che hanno un po' avvelenato, un po' contraddistinto la sfida politica di un ventennio, anche per la presenza in campo ovviamente di un soggetto particolare, Berlusconi. Ed è proprio a lui che si riferisce Grillo quando dice a Orlando: noi non ci confrontiamo con te perché hai scritto la riforma con un pregiudicato. Ma se questo è un tema forte, immaginatevi l'altro, che pure dopodomani dovrebbe portare alle linee della riforma in Consiglio dei Ministri, la scuola. Stamattina grandi titoli sulla notizia che sarebbero assunti 100.000 precari. Ora sarebbe una buona notizia ovviamente, non soltanto per quei 100.000 e le loro famiglie, ma una cosa così costerebbe almeno 3 miliardi. Dove sono questi soldi? E poi l'altra cosa ovviamente, si assumono 100.000 persone, ma la riforma della scuola porterà, che so... Questa è Mentana, tra poco sentiamo anche i titoli del telegiornale, andiamo intanto con Giovanni che chiama da Monza. Sì, buonasera. Giovanni, buonasera. Sì. Buonasera. Senta, io volevo intervenire sul fatto dei nostri due militari in India, i due Marò, sì, che sono ancora purtroppo nelle mani degli indiani. Lì devo dire che la nostra classe politica non ci sta facendo una bella figura per come sta portando avanti la questione, anche perché diciamo che ci stiamo facendo un po' rigirare un po' come vogliono dalla giustizia più che altro indiana. Io vorrei mettere al posto dei nostri Marò o due inglesi o due marine americani, volevo vedere come probabilmente andava a finire in maniera diversa questa questione. Probabilmente la nostra classe politica non ha un peso internazionale così... Scusi, le chiedo di farci sentire i titoli un attimo della 7. Prego, prego. Nella riunione di dopodomani. Oggi c'è stata una riunione di maggioranze. Al termine il ministro Orlando ha ammesso che sono emerse tra le diverse forze politiche differenze di approccio anche sulle priorità che deve avere la riforma. Insomma, si litiga, anche se la responsabilità civile dei magistrati comunque dovrebbe essere nel disegno di legge delega. Il governo è sempre alle prese con i conti pubblici da far quadrare, ma emerge anche contemporaneamente la determinazione di assumere 100.000 precari nella scuola. Come è possibile, visto che l'operazione costerebbe almeno 3 miliardi, che al momento non ci sono, come ha confermato anche il ministro Padoan questa mattina? La borsa anche oggi guadagna e Milano è la migliore d'Europa, lo spread continua a scendere, i tassi di interesse dei titoli decennali italiani sono adesso inferiori addirittura a quelli americani. Ma se la finanza marcia bene, però poi ci sono i dati dell'economia reale che sono di segno opposto. Uno per tutti, l'indice Istat sulla fiducia dei consumatori, che ad agosto scende ancora e per la terza volta di fila. Arriva la risposta dell'Europa alla strage di migranti continua nel Mediterraneo, si chiama Frontex Plus e partirà al novembre, è la missione di vigilanza con navi e elicotteri di diversi paesi che dovrebbe sostituire l'operazione Mare Nostrum, svolta finora come sappiamo solo dal nostro paese, iniziata ormai quasi un anno fa. L'Europa premia i nostri sforzi, ha detto il ministro dell'Interno Alfano al termine del vertice a Bruxelles col commissario degli affari interni dell'Unione Cecilia Malmström. Mentre a Gaza regge la tregua con Hamas, ci sono scintille di guerra sulle alture del Golan, cioè la frontiera tra Israele e Siria. C'è stato uno scambio di artiglieria con le forze israeliane che hanno risposto al fuoco che proveniva dal territorio siriano, ma la notizia è che la zona da dove si è sparato è contesa tra le forze del regime di Damasco e i ribelli che sono associati all'ISIS di al-Baghdadi. Ancora polemica alzo zero del Movimento 5 Stelle contro i giornalisti, soprattutto quelli della RAI, una bordata di Grillo che se la prende con le citazioni che in Italia vengono usate come invenzione letteraria per creare, afferma Grillo, degli autentici fans. Sfumiamo i titoli lunghissimi della 7, altrimenti non finiamo più, e chiedo a Giovanni da Monza se vuole chiudere. Però le voglio chiedere un commento, lei stava parlando dei due Marò, secondo lei ha sentito l'intervista al sindaco di Fasano, Lello di Bari? Sentita. Cosa sì, pensa? L'ho sentita in parte. Dovrebbe fare qualcosa di diverso, lo critica per il fatto di... Vabbè, lui dice io non avrei comunque potuto far niente perché queste sono persone che privatamente decidono di venire a fare un matrimonio qua. questi indiani. Ma io penso che sinceramente non c'è da venire da prendersela con delle persone che vogliono festare un matrimonio indiano qui sul nostro territorio, ma ci mancherebbe altro. Questo sarebbe veramente fare delle azioni che non hanno nessun senso. Oltretutto, quello che noi dovremmo fare probabilmente è altro, a livelli chiaramente molto, molto più alti, certo, di una politica diplomatica che è un altro peso. Diversa. Adesso, al di là di andare a indagare se è colpa loro o non è colpa loro la morte di quei due poveretti indiani, perché chiaramente non si può entrare nel merito, perché immagino che nessuno di noi abbia le prove della loro colpevolezza oppure della loro innocenza, però sono stati fatti veramente parecchi errori, a partire dal capitano della nave che ha portato la nave dalle acque internazionali, è entrato nelle acque indiane, si è fatto addirittura portare fino al porto, sì. Cioè, ci sono adesso, quegli errori. Sì. Adesso non riaprirei tutto il capitolo perché sono cose insomma già dette che sappiamo, e quindi adesso il punto era un po' questa polemica che qualcuno ha voluto vedere nella vicenda di Fasano. Matteo da Livorno, buonasera. Buonasera a lei, grazie per l'ospitalità, visto che ci sono venti di razzismo, come pare. Allora, io volevo dire innanzitutto, la ragazza che ha vinto a Livorno è bellissima, le altre le ha sbaragliate completamente, quindi veramente brava, e devo dire ottima la risposta che ha dato. Poi dire che Livorno ci sia un po' di razzismo, questo non credo, è una città che ha come simbolo i quattro mori, quindi mi pare un po' strano. Io ho detto qualche stupido, forse addirittura qualcuno che voleva sollevare qualche polemica senza neanche capire bene quello che stava dicendo, forse. Sono d'accordo, comunque le posso dire che il giorno dopo sono andato a un bar a fare colazione con la moglie e la bambina, accanto a me aveva un tavolo con quattro persone sulle 60 anni e hanno avuto un commento però negativo, hanno detto una Miss Livorno di colore, da che parte si sta andando. La mia reazione, io stavo per alzarmi e rovesciarmi il tavolo, poi insomma lo vede però che qualcosa c'è sotto, no? Che sì, sotto ma la brace, ma il razzismo è latente in tutti noi, è una questione culturale. Il razzismo va sempre combattuto con la cultura, con un accrescimento culturale, con una modernizzazione. Tenga conto che nel bar dove io ho fatto colazione c'è un ragazzo che fa il cameriere, un bellissimo ragazzo, educatissimo, di colore. Cioè, io credo che non si possa gridare al razzismo. Teniamo conto che noi abbiamo un probabilmente per quelle persone un cameriere di colore va bene, ma una miss di colore no, perché chissà perché ho questa sensazione. Cioè, il barista di colore lo ammettono, forse perché fa un mestiere umile, non lo so. Assolutamente, tenga conto, ricordiamoci che abbiamo un signor Tavecchio che è giustificato, tutto lo giustificano, però ha dato una risposta assolutamente stupida quando ha affermato quello che ha affermato. Quindi non ci dobbiamo scandalizzare se nella nostra classe dirigente, che poi l'amor di Dio contestualizziamo tutto, no? Però ancora persistono dei dirigenti dell'Italia che fanno battute stupide sul razzismo. Perché? Non solo, ma dopo aver fatto battute, invece di essere diciamo squalificati o messi in secondo piano, vengono poi confermati in un ruolo di vertice che prima non avevano. E questo sono d'accordo con lei, è un messaggio stupido che diamo ai ragazzi, esatto, sicuramente. Ma perché l'Italia, ahimè, è un posto dove vogliamo contestualizzare tutto, invece no, ci sono delle cose che sono giuste e altre che sono sbagliate, proprio per assioma. Non possiamo più pensare di contestualizzare tutto, perché altrimenti ci perdiamo. Poi, per quanto riguardava quel signore che diceva dell'India, che prima che i miliardari vengano qua a fare, ricordiamoci, l'India è 1 miliardo di abitanti, 1 miliardo, se ci sono 100.000 arci miliardari, teniamo conto che noi in Italia abbiamo, mi pare, il 6 o il 7% di popolazione italiana che è sotto la soglia di indigenza. Allora cosa vogliamo dire? Che fare un matrimonio a Napoli dove si spende 80.000 euro è allora uno schiaffo ai nostri poveri? È stupida come cosa. Allora io dico, contestualizziamo? No, dico, i numeri sono importanti. Però non dimentichiamoci che in India è vero che c'è gente muore di fame, però c'è anche una condizione che l'India, ricordiamoci, è stato uno stato che per la scolarizzazione è stato il primo stato mondiale che ha fatto le lezioni a scuola via satellite per raggiungere tutto il territorio. Grazie Matteo, buona serata. Grazie, buona serata. 800 24 00 24, tra poco con altri interventi. Adesso però è il momento di fare quattro chiacchiere con Franco Bolelli. E non mi annoio. E no che non mi annoio, non mi annoio. Io no che non mi annoio, non mi annoio. No, che ciao non Franco, annoio, buonasera. Buonasera. Allora, riprendiamo il filo delle nostre chiacchierate estive, nelle quali ci hai così voluto un po' riconciliare con la lettura. Abbiamo fatto un percorso, non so se vuoi segnare così con dei puntini su una mappa il tragitto che abbiamo fatto. Il passato, Don Winslow, che è il più grande scrittore contemporaneo, un tuffo nel mio grande maestro Friedrich Nietzsche, Simone Regazzoni, che ha scritto un bellissimo romanzo che si chiama Abyss, e settimana scorsa Dream Team, che è la storia della mitologia sportiva della squadra olimpica americana di basket del 92. Stavolta chiudiamo il cerchio con Steve Jobs, cioè il personaggio più significativo della nostra epoca. Credo che tanti abbiano letto la sua biografia, uscita un anno e mezzo fa, se ricordo bene. Poi è uscito anche un piccolo libro che si chiama Lezioni di Leadership. Io credo che sia sempre diffidare dei libri che ti dicono come fare le lezioni e tutto. Questo però invece ne vale la pena, perché Steve Jobs non è semplicemente l'uomo che ha creato una delle imprese più grandi della nostra cultura contemporanea, non è soltanto quello che ha reso sexy e pop la tecnologia, ma è anche la storia di un carattere straordinario, cioè un personaggio capace di visioni incredibili, con un carattere, dicono, insopportabile, come tutti i grandi caratteri, come ovvio, perché in un carattere forte è veramente sempre complicato distinguere la forza, la grande potenza vitale da certi aspetti assolutamente intrattabili. Ed è la storia di uno con una formazione spirituale buddista, eccetera, per cui con una forte ricerca personale, non certo quella tipica del classico capitano d'industria, che invece poi arriva a costruire qualcosa di assolutamente senza precedenti, se pensiamo che ancora oggi Apple ha più liquidità dell'intero Stato americano. Beh, sì, questo. Beh, se stiamo ai numeri. Ma io non sapevo che Steve Jobs avesse un approccio, fosse buddista, questo, perché io non sono un grandissimo buddista. Il ragazzo è stato uno sbandato autentico, nel senso che ha seguito veramente la classica trafila retorica del viaggio in India, delle droghe, della meditazione, cioè sembra quasi un luogo comune, ma invece l'ha seguito, perché lui ne ha avuto l'intelligenza di tirarne fuori tutti gli aspetti più propulsivi e di lasciare per strada tutta la retorica e tutta l'inutilità. Ma ha quel tipo di formazione, è uno che arriva dalla cultura americana alla fine dei conti. Senti Franco, voglio chiederti ancora un'altra cosa, perché va bene Steve Jobs, incassiamo anche questo suggerimento, però come abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, io ti seguo e come me molti altri, sono rimasto colpito da un altro tuo intervento in cui in quest'estate, diciamo così, infuocata dal punto di vista di quello che succede nel mondo, hai fatto una specie di elogio al contrario del dubbio, l'elogio della decisione, del momento delle scelte. E a me, come altri forse, che invece siamo abituati forse a cullarci nell'elogio del dubbio, del meditare bene le scelte, adesso non voglio fare citazioni filosofiche di cui non capisco niente, però Brecht e dintorni. Invece tu come giustifichi questa necessità? Io credo che se uno non avesse dubbi e non avesse voglia di approfondire lo spirito critico sarebbe un deficiente, questo è del tutto ovvio. Però noi oggi stiamo assistendo a un fenomeno opposto, che in passato erano talmente forti i dogmi, le imposizioni dall'alto, che nutriva il dubbio e il pensiero critico era sano, perché ti aiutava a mettere in discussione gli insegnamenti dogmatici. Oggi mi sembra che stia succedendo il contrario, cioè che il dubbio e il pensiero critico, cose necessarie, se però le mettiamo al primo posto, producono dei danni antropologici terrificanti, perché non ci spingono più ad agire, frenano le nostre capacità di scelta, perché siamo sempre alla ricerca di spaccare il capello in quattro e di cercare a tutto giustificazioni, spiegazioni, analisi, eccetera eccetera, il che va benissimo fino a un certo limite, oltre quel limite però toglie la forza, toglie l'azione, soffoca completamente lo spirito dell'azione e soffoca la forza umana. È un discorso che secondo me vale soprattutto evidentemente per il maschile, e qui le signorine credo che possano abbondantemente confermare, perché ne sento tante che si lamentano proprio di questo, cioè che dei tentennamenti del maschio? Eh sì, i maschi sono diventati, generalmente parlando, a me le generalizzazioni sembrano sempre ridicole, per cui ci sono sane tante lodevoli eccezioni, però generalmente parlando oggi abbiamo una figura maschile più spirituale, più intelligente, più attenta, più sensibile, più tollerante, tutte cose ottime, per carità, certamente meglio del maschile precedente che non aveva nessuna di queste caratteristiche. Però dall'altra parte tutto questo porta alla non capacità di scegliere, alla non capacità di compiere gesti forti, azioni importanti. Cioè il maschile in questo senso ha perso il senso dell'impresa. Il senso dell'impresa, non parlo di scavalcare la montagna o di conquistare l'Everest, parlo del senso dell'impresa nei gesti quotidiani, nella capacità di tenere vivo una relazione sentimentale, nella crescita dei bambini, nelle scelte professionali. A me sembra che oggi noi siamo, generalmente parlando, troppo attaccati al dubbio, alla critica, a quell'intelligenza che ci porta ad analizzare, e poi ci ha fatto perdere di vista il senso dell'azione e della nostra forza. Io, come sempre, quando ti ascolto e poi ho bisogno di un po' di tempo per metabolizzare, per capire, perché c'è questa parte. Quindi, volendo, diciamo, sintetizzare o brutalizzare con parole mie, potrei dire che a fianco ad una giusta attenzione per il dubbio e per chiarirsi bene le idee prima di agire, bisogna coltivare forse oggi più di ieri anche il gusto per l'impresa, per l'azione, perché questo ci rende vivi e ci rende vitali. Non vorrei però che la mia paura, lo sai, è che questo nello scenario poi medio orientale ci spinga a fare errori che abbiamo già fatto in passato, la guerra fallimentare in Iraq o in Afghanistan e cose di questo genere, però questo è un dubbio che mi rimane. Un altro campo d'applicazione, io mi riferisco di più in questo, quella può essere l'ultima delle conseguenze, cioè l'ultima intesa nel senso del filo del mio ragionamento, non certo per importanza. Io mi riferisco molto di più in questo caso all'attitudine verso i gesti quotidiani e alle scelte della nostra esistenza. Sì. Quello certo ha un'influenza, nel senso che se noi siamo paralizzati dal dubbio e se non siamo più abituati ad agire, è del tutto ovvio che l'azione ci sembra qualcosa poi di sbagliato, mentre se pensiamo che l'azione tante volte è una necessità, noi siamo abituati ormai antropologicamente a confondere la forza, che è una cosa sanissima, con l'uso oppressivo della forza, e abbiamo corso il rischio tante volte di buttare via il bambino della forza con l'acqua sporca della forza oppressiva. A me questo sembra un errore assolutamente catastrofico. E va bene, Franco, benissimo. Mi dispiace perché poi dalla settimana prossima non ci saremo più noi a quest'ora, quindi non so se ci sarai tu a quest'ora con cui... No, assolutamente no. È l'ultimo appuntamento, te ne sono stragrato e ringrazio chi ci ha ascoltato. Io sono grato a te per averci regalato tutte queste riflessioni in queste serate, poi tanto il programma trasloca, va avanti nel weekend, lo dico anche a chi è beneficio, chi ci ascolta, sabato e domenica mattina riprendiamo, e quindi magari alcune di queste chiacchierate con Franco Bolelli le rifaremo anche in quello spazio, se tu avrai voglia e piacere di essere con noi. Volentieri. Grazie. A presto, ciao, buona estate. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Si può fare, l'attualità, anche d'estate. Milva da Vicenza, buonasera, benvenuta. Buonasera. Prego. Io volevo intervenire un attimo sulla scuola. Sì. Allora, io non ho figli, ma ho dei nipoti, oppure conosco persone che hanno figli che vanno a scuola. E va bene internet, va bene l'inglese, va bene tutto quello che può accrescere, ecco, la persona, ma dovrebbe purché arrivi, perché questi sono tutti gli annunci, e poi abbiamo appena scoperto che l'inglese non lo potremo fare perché non ci sono insegnanti formati per la materia, allora, in inglese. Lo so perché vi ho ascoltato 5 minuti in macchina, poi magari l'avete già detto questa cosa. Allora, quello che volevo dire io è che, allora, per i bambini intanto bisognerebbe partire prima, perché come diceva John Peter Sloan, non so se la pronuncia sia esatta, l'ho visto su Rai 5 l'altra sera, che faceva domenica, credo, adesso io non lo conoscevo. Vabbè, come diceva John Peter Sloan? Diceva che appunto il bambino come limite avrebbe già i 6 anni per l'apprendimento delle lingue. Non lo dice solo Peter Sloan, è chiaro che prima si comincia meglio è per tutto. Lo diceva lui che è inglese e che insegna inglese. inglese, no? Sì. E che diceva appunto che i ragazzi italiani, lui ne ha visti tanti, hanno proprio fortissime difficoltà per questo motivo, perché partono molto tardi. Sì, ma infatti penso anch'io che questa cosa di insegnare una materia in lingua inglese all'ultimo anno del liceo sia bella, ma rischia di essere un po', come dire, cioè una ciliegina su una torta che non c'è. Perché esatto, se non si è costruita la torta, però questi sono dubbi, ma insomma, sulla pasta. Infatti lui diceva proprio questo, diceva, ma come si fa a insegnare una materia che magari è già ostica, perché si parlava di storia dell'arte, magari uno già non la recepisce bene, non lo so, è già fatica magari che la capisca nella sua lingua, giusto? E quindi, ma è questo lo sforzo però che si vuole fare, mi scusi, perché è proprio quella l'idea, cioè è comunque meglio tardi che mai, verrebbe a dire, una lingua la può imparare anche da adulto. Quindi Milva, arriviamo al punto, cosa voleva dire? Sì, però io volevo dire anche un'altra cosa. La dica? Alle elementari, la ginnastica viene insegnata dalla maestra di italiano, alle medie la musica viene insegnata dall'insegnante di scienze piuttosto che di storia. Allora, se siamo ancora a queste cose qua, ok, con tutta la buona volontà che può avere un insegnante di italiano che insegna la ginnastica a un bimbo, che magari può far più male che bene, perché io vorrei vedere come la insegna, ecco. Allora, capito, lei dice tutta la rovescia, quindi non lamentiamoci poi se anche l'inglese l'insegnamento l'inglese non va a buon fine. Vabbè, anche questo è vero, non tutte le scuole saranno così, Milva, però ce ne saranno anche, come dice lei. Stefano dalla provincia di Belluno, buonasera. Sì, buonasera, grazie di avermi chiamato. Grazie a lei, prego. Io chiamavo sulla questione dei profughi, mi scuso ma ero in macchina, stavo tornando dal lavoro e ho sentito l'ultimo pezzetto, credo fosse Don Gigetto, no? Esatto. Don Gigetto De Bortoli. Esattamente. Allora, noi siamo, volevo portare questa testimonianza, il Consorzio Sviluppo e Innovazione, che opera appunto qua nella provincia di Belluno e che attualmente ospita 57 profughi. Ok. Volevo portare questa testimonianza in positivo, che non solo si stanno integrando benissimo e abbiamo riscontri molto positivi anche dalla popolazione, e mi lasci anche dire che ringrazio il comune di Belluno, l'assessore Valentino. Vabbè, Tomasi, adesso lasciamo perdere i ringraziamenti. Insomma, nel suo centro, gestito da questa, cos'è, una cooperativa? No, questo è un consorzio di cooperative. Le cose funzionano meglio a Belluno, Stefano. No. Ma allora mi scusi, per restare al tema che abbiamo proposto noi, che idea si è fatto? Perché io gliel'ho chiesto, ma alla fine perché c'è stata questa protesta? Veramente perché erano annoiati, come ha scritto Libero, questi immigrati? Allora, guardi, intanto naturalmente penso sia abbastanza comprensibile che parliamo di una questione molto delicata. Cioè, questi ragazzi arrivano ed io sono andato ad accoglierli all'arrivo in condizioni pietose e hanno bisogno di tutto. Noi agiamo tutti quanti, compreso anche Don Gigetto, ma anche come Consorzio Sviluppo e Innovazione, rispetto a una convenzione che è stata stipulata con la Prefettura di Belluno, che prevede appunto delle cose, quindi, tra virgolette, minime, dal cibo a dormire, ecco. Cosa succede o cosa può succedere? Che queste persone, essendo bisognose di tutto, vanno, come dire, un po' in progress. Scambiano, no? Il centro dove stanno per un posto dove devono avere risposta a tutti i loro problemi. Voi questo non potete farlo. Io, per darle un'idea, le riferisco l'indicazione che ci è stata data alla prefettura. La prima cosa che voi dovete spiegargli è che non sono né in un albergo né in vacanza. Però qui subentra un'altra questione, il tempo, perché l'articolo del Gazzettino diceva persone che stanno in questo posto anche da 4 mesi. Ora, un conto qualche settimana, un mese, 2 mesi, ma 4 mesi comincia a essere lunga, o no? Non è che dipenda da noi, eh? No, ma io non sto dando la colpa a voi, sto cercando di capire quello che può succedere, no? Scusi, per capire anche la procedura. Questi sono in attesa di essere chiamati dalla commissione che è costituita a Gorizia, dove devono decidere se gli danno lo status di profugo. Ma è questo che non si capisce, perché per fare queste cose ci vogliono mesi, anni. Certo, in Italia ci vogliono 7 anni per fare un processo civile, figuriamoci se non ci possono volere un anno per dare un diritto d'asilo a qualcuno. Però poi si creano situazioni al limite come quella che abbiamo descritto. Grazie Lorenzo, comunque mi sa che dobbiamo chiudere, perché Siamo stasera a chiusura anticipata, c'è di nuovo pubblicità, Radio 24, meno male, il mercato va bene, tira, Pietro la corte in regia. È tutto, ci risentiamo domani 18:20 e 30, buona serata da me, Alessio Maurizi, ma anche da Andrea Piana, Camilla Tomadini, Lorenzo Nespoli e Riccardo Poli, che hanno scritto e redatto con me questa puntata di Si può fare. Ciao a tutti, a domani, ciao.